benvenuti alla quarta puntata di Cialtroni nello spazio con un grande ritorno. E quindi iniziamo subito con la tipica domanda che veniva rivolta a tutte le puntate l'anno scorso. Marco, ci illustri che cos'è Cialtroni nello spazio? Un saluto anche a Alessandro. No, dottor Marco. Dottor Marco, attenzione. Esatto. Che cos'è Cialtroni nello spazio, Marco? Dottor È una Marco. Trasmissione musical culturale. Fino qua va bene. Che si prefigge di parlare di software libero. È arrugginito. Lo so, sono un po' di anni che non è dottore, ma non è cambiato. Beh, praticamente vogliamo parlare di software libero e di repressione informatica nel mondo. E insomma, Zamp, tu trovi sempre le parole giuste per dire in due parole. Io ci diciamo che se volevamo spiegare che cos'era Cialtroni nello spazio, almeno abbiamo spiegato la prima parte di questa trasmissione, ovvero la parola cialtroni. Cialtroni cosa sono? Sono quelli come Marco. Cialtroni nello spazio, trasmissione culturale musicale di informatica, software libero e digitali, effetti digitali, nonché libertà digitali. Siamo giunti alla quarta puntata dell'edizione del secondo anno nuovo della nuova gestione 2005-2006, quella insomma dove ci sono Alessandro e Marco, no, dove ci sono Alessandro ed io, anche se tu invece sei uno degli storici di Cialtroni nello spazio. Ma dov'è Dio? Non ho capito. Vabbè, non importa, iniziamo con la scaletta, perché sennò qua non ne usciamo. Alessandro, dici la scaletta. Alessandro, la scaletta. Allora, oggi andiamo a parlare. Mi sono nascosto come sempre, d'altronde. Dunque, oggi andiamo a parlare di alcune notizie che riguardano il fenomeno della repressione rispetto ai programmi di file sharing. Quindi, una panoramica generale su alcune cose che sono avvenute in Svezia, la situazione italiana e quella americana, con alcune notizie di quest'estate. Insomma, per avere un'idea un po' di come funziona. E legato a questo poi ci sarà un altro argomento sull'FBI e i suoi metodi di indagine, che poi potrebbero essere tranquillamente replicati per i servizi segreti italiani o in generale la polizia italiana. E poi qualche notizia, se c'è spazio, anche un software utile. Va bene, iniziamo. E la musica di oggi che cosa sarà invece? Ci annunci qualcosa? Non so. Sì, è un gruppo abbastanza conosciuto, Guido Foddis, che fa un rock, diciamo così, impegnato, comunque abbastanza conosciuto, dopo lo vediamo meglio. E iniziamo quindi parlando di peer-to-peer, di libertà e di repressione. In particolare, vabbè, una notizia abbastanza una novità, non era mai accaduto infatti in Svezia che un utente internet venisse condannato per condivisione di materiale protetto da copyright. Insomma, cioè, aveva messo a disposizione di altri utenti un film che era sul suo computer. La prima volta che viene condannata una persona per un reato di questo tipo in Svezia, e la multa è abbastanza salata, perché sono circa 1.600 euro, anche se insomma, forse più che il denaro conta quello che è l'effetto, il messaggio che si cerca di dare colpirne uno per educarne 100. In realtà non riescono a educarne, non perché ci sia qualcosa da educare in questo tema, nel senso di libertà, eccetera, però è semplicemente il fatto che anche la repressione non ha diminuito nel corso degli anni gli utenti che condividono il materiale attraverso il loro computer, attraverso i circuiti peer-to-peer, come può essere BitTorrent o gli altri anche più utilizzati, come magari, no, BitTorrent è il più utilizzato, quindi altri circuiti come Emule o il vecchio Kazaa, che se non sbaglio adesso è chiuso, e tutto il resto. Esatto, continua alla fine ad aumentare gli utenti, quindi alla fine in realtà non questa educazione non avviene, anche se c'è molto da discutere sul fatto che bisogna essere educati per una cosa di questo tipo. Beh, storicamente, per quanto riguarda i reati informatici, anche l'America ha sempre avuto il pugno tra virgolette di ferro, con i famosi casi di Mitnick, sbattuto in carcere per un sacco di anni e interdetto ad avvicinarsi a meno di 3 metri a un computer, o scenari apocalittici del genere. In realtà, in questa situazione del peer-to-peer, quello che le major stanno tentando di fare, e in cui falliscono clamorosamente, è di mantenere il dominio sulla distribuzione dei sistemi, dei contenuti intellettuali, ovvero sia dei film, della musica, mentre cioè la tecnologia e il mondo potrebbe funzionare in un modo completamente diverso con sistemi di vendita online di musica, di film, ma in realtà queste major vogliono riuscire a fare molto più cassetto di quanto in realtà cioè praticamente vanno contro la tecnologia. Infatti sì, nel senso che per esempio è possibile acquistare la maggior parte dei file musicali più o meno, insomma, quelli più venduti, cioè quelli più famosi, si possono comprare a 99 centesimi sul sito della iTunes della Apple, ma anche su molti altri, semplicemente pagando insomma un euro per un costo abbastanza basso per un solo brano. Ma bisogna anche rendersi conto che comunque per chi lo distribuisce, per chi lo mette a disposizione, il costo di riproduzione, di distribuzione è sostanzialmente nullo, ed è proprio questo che vanno a condannare le major, che infatti chiedono alla Apple di alzare i prezzi. Non è un caso. Esatto, le major alla fine si sono arricchite facendo il bello e il cattivo tempo per decenni. A questo punto hanno la tecnologia che rischia di scalzarli dal loro trono, facendoli perdere relativamente un sacco di soldi che a quel punto non verrebbero più distribuiti a loro, ma probabilmente andrebbero a finire ai legittimi produttori delle canzoni o dei film in questione. E quindi il loro tentativo è quello di spingere le leggi in modo da ridurre l'entità di questi sistemi di peer-to-peer, ma stanno fallendo clamorosamente. E qualcosa si muove infatti anche in Francia. Esatto, in Francia appunto abbiamo invece una cosa che è relativamente controtendenza, per quanto appunto, in quanto la Commissione Nationale dell'Informatique de la Liberté, Commissione Nazionale dell'Informatica e della Libertà, dell'informazione, della libertà, non so tradurre al francese, ha deciso infatti che i detentori proprietà intellettuali, mi sto incartando. Marco, ma mi sembra che tu abbia smesso di entrare nel vivo delle questioni come eri solito fare l'anno scorso. Che cosa è successo? Facciamo domande e tu rispondi. Ah, ok, allora mettiamola giù diversamente. Allora, i proprietari, i detentori dei diritti di film o di musiche cercavano in Francia di imporre il sistema prettamente americano, che consiste nel controllare insomma il traffico di internet in qualche modo, vedere chi sta condividendo dei file e lanciando attraverso il provider delle denunce e delle richieste di risarcimento direttamente alle persone interessate, alle persone che stanno condividendo della musica, senza passare attraverso un legale processo, un intervento dell'autorità giudiziaria. Insomma, come se io stessi condividendo un file e mi arriva direttamente la Sony a casa mia o esatto, comunque un'altra azienda, senza passare attraverso la autorità giudiziaria, perché il mio service provider, quindi in Italia potrebbe essere Libero, Tiscali e i vari altri provider, sono stati contattati direttamente dalla major discografica, senza passare appunto attraverso la... o da un'entità simile, tipo ad esempio la SIAE italiana. Questa cosa che in Italia non è ancora possibile, invece è una realtà negli Stati Uniti, in cui le varie... non so, la MCA... no, come si chiama la... La RIA, ad esempio, manda attraverso degli avvocati a coloro che stanno condividendo della musica direttamente le accuse di condivisione di musica, e a quel punto manda anche una richiesta di patteggiamento per cifre a volte spropositate, per dire finiamola qui, non finiamo davanti a un tribunale. Qualche decina di migliaia di dollari, contando sul fatto che negli Stati Uniti capita molto spesso che invece di voler pagare le lunghe spese di un processo, anche per i costi esorbitanti degli avvocati, si preferisce patteggiare immediatamente. Quindi se la prospettiva è di pagare 20.000 euro per risolvere tutto quello che hai scaricato, oppure affrontare un processo con avvocati che sono capaci di chiederti più o meno il doppio, se non di più, per molti è più facile patteggiare, anche se ovviamente questo è E quindi cosa è successo in Francia? In Francia le varie società equivalenti della nostra SIAE italiana avevano appunto chiesto di poter agire direttamente verso le persone, scavalcando l'autorità giudiziaria. E questo Commissione Nazionale dell'Informatique de la Liberté ha detto no, non si può fare per due ragioni. La prima è che questa la possibilità di associare l'indirizzo IP, ovvero l'identificativo univoco di ogni computer connesso a internet e l'utente che lo sta utilizzando, questa associazione indirizzo IP utente è vietata da una risoluzione della Corte Costituzionale francese precedente del 2004, e che inoltre il provider non è tenuto a conservare i log di collegamento a internet dei suoi utenti. A questo punto, non essendo tenuto il provider a conservare queste informazioni, non può neanche fornirle alle varie equivalenti della SIA italiana. E qui tiriamo fuori la situazione italiana. Allora, in Italia è vero che la SIA, che è l'ente che difende i diritti d'autore, non può andare direttamente presso i provider a richiedere il vostro nome se state condividendo materiale protetto, però è anche vero che dopo l'approvazione della legge Urbani i provider sono obbligati a mantenere i log, quindi sostanzialmente quello strumento che permette di associare tracciati, esatto, di associare un indirizzo internet con un nome proprio, quindi con una persona fisica, facendo saltare l'anonimato della rete. Dopo il decreto Urbani, appunto, i provider sono tenuti a mantenere questa cosa, e non solo, i provider sono anche obbligati a denunciare i propri utenti o comunque a mettere in atto tutta una serie di procedure per rilevare i comportamenti illegali che avvengono tramite la loro connessione, che ovviamente è assurdo. Sostanzialmente i provider dovrebbero fare da polizia, cosa che ancora non si è realizzata fortunatamente, però la legge prevede questo. Negli Stati Uniti invece la situazione, come dicevamo prima, è molto diversa, e le varie major cinematografiche o musicali agiscono direttamente contro le persone. È stato un caso abbastanza eclatante di quest'estate, di una bambina di 6 anni, se non sbaglio, non vorrei dire una cretinata, che è stata denunciata e minacciata di essere trascinata in tribunale appunto da una di queste major, in quanto aveva condiviso dei file su internet. E niente, la madre della bambina si è un po' incavolata e ha deciso di sporgere denuncia per molestie. Sì, perché sostanzialmente ha documentato come dal suo computer quelle operazioni non fossero né possibili a lei né al bambino, e li ha controdenunciati. E attualmente c'è una causa in corso, tra l'altro credo che sia anche appoggiata dall'EFF. E sempre legato a questo tema, diciamo che se nei paesi occidentali il peer-to-peer è spesso legato a questioni appunto economiche di difesa del copyright e quindi di lotte tra consumatori e case discografiche o case di produzione, esistono situazioni nel mondo in cui il peer-to-peer è uno strumento per avere accesso a informazioni che regimi più o meno autoritari vietano. È il caso di 9 ragazzi di Zarsis, che è una città tunisina, che nell'aprile 2004 sono stati condannati a 13 anni di carcere per appunto, stando alla condanna, per aver avuto accesso a materiale ritenuto terroristico. Poi in realtà la denuncia è risultata piuttosto fasulla, insomma. E per questo Amisnet e Lettera 22 hanno iniziato una raccolta firme, un appello di raccolta firme presente sul loro sito www.amisnet.org, dove che è una raccolta firme che verrà presentata a novembre a Tunisi in occasione del Forum Mondiale per la Società e l'Informazione, appunto per chiedere la liberazione di questi 9 ragazzi che appunto, stando al documento che è presente anche su Amisnet, alla fine non hanno avuto nessun tipo di attività terroristica, se non semplicemente l'accesso a del materiale tramite reti peer-to-peer. E andiamo adesso a sentire un brano musicale. Abbiamo detto appunto di Guido Foddis, il brano si chiama Voglio entrare nella Digos, è abbastanza simpatico, per cui... Torniamo in trasmissione, quindi dopo Guido Foddis, questa simpatica canzone, adesso andiamo a parlare di cose invece diverse, continuiamo a parlare di informatica, continuiamo a parlare di libertà. Adesso andiamo a parlare di intercettazioni, Marco. Esatto. Beh, neanche poi così diverse in fondo. No, neanche così diverse. Ci sono appunto un paio di notizie di questa settimana sul, su appunto sulle metodi di intercettazione dell'FBI. In particolare è stata un'azione legale della organizzazione che si batte per il rispetto della privacy, la EPIC, ha obbligato l'FBI a rilasciare al pubblico dei documenti che appunto che miravano a dimostrare le metodologie che l'FBI utilizza per gli intercettamenti, le intercettazioni. Sono diventate open source? No, no, in realtà c'è una legge americana che si chiama la Freedom of Information Act, che obbliga in particolari casi gli enti governativi a dover rilasciare quello che, cioè, i loro documenti interni. In particolare sono saltati fuori appunto da questi documenti interni di 13 casi di abuso attuati appunto dall'FBI, che si metteva... Cioè, questo perché ha rilasciato le prime due pagine probabilmente. Non lo so, adesso non ho il documento completo, però per adesso sono saltati fuori 13 casi di abuso appunto sull'azione che l'FBI ha compiuto in quanto riguarda le intercettazioni. In particolare ha deciso il sequestro di conti bancari senza avere appunto il supporto del non mi viene il termine, insomma, di testa sua, senza nessuna richiesta dell'autorità giudiziaria. Ha deciso la registrazione di email per periodi superiori a quelli ai normali tempi di intercettazione, ha eseguito perquisizioni caso a caso senza avere appunto le autorizzazioni corrette e un sacco di cose del genere. E niente, un'altra notizia sempre di questi giorni è che l'FBI, che utilizza questi bei metodi scorretti per fare le intercettazioni, pretende invece che le possibilità, che le sue possibilità di intercettazione vengano ulteriormente aumentate. Si parla di questa necessità impellente di evitare che i terroristi possano utilizzare malevolmente qualsiasi tipo di accesso a internet a banda larga. E quindi con questo vogliono il controllo praticamente totale di tutti i traffici di informazioni che qualsiasi computer connesso a internet esegua, per cui che siti una persona va a visitare, il tracciato dei messaggi di posta, il tracciato delle comunicazioni voice over IP, che adesso stanno andando per la maggiore, quindi registrare tutte le telefonate che la gente si fa online. E niente, questo... appunto questi metodi richiesti dall'FBI però ha scatenato le ire di alcune associazioni, tra cui la Electronic Frontier, non riesco a dirlo neanche io. Anche tu non ci sei riuscito, anche tu. La Electronic Frontier Foundation, che appunto ha detto che questo piano è assolutamente inattuabile, con costi proibitivi, e comunque va a ledere la libertà di parola delle persone, e va... Beh, un po' come la notizia che abbiamo dato un paio di settimane fa, appunto, con cui l'FBI riusciva a tracciare la data di stampa e l'origine delle stampe, dalle stampanti laser a colori. Tutte tecniche ovviamente che sono al di fuori dalla legislazione, cioè nel senso... strumenti che l'FBI ha accordato direttamente con le varie aziende, un po' come vorrebbe fare col voice over IP, e come probabilmente farà se non riuscirà a ottenerlo a livello legale, ma che sono comunque al di fuori appunto della legislazione, quindi comunque passibili poi di eventuali denunce, come appunto spesso fa oppure la EPIC. Tra l'altro il sito della EPIC è www.epic.org, dove ci sono varie campagne sulla protezione dei diritti digitali, in particolar modo americane ovviamente, perché si occupa dello Stato americano, però sono sempre indicative anche per i nostri stati. Facciamo anche qualche segnalazione un po' più veloce. Falle in Skype, il famoso programma che viene utilizzato per fare voice over IP per chattare con i propri amici, uno di quei programmi famosi che instant messaging, che quando stanno aperti vi fanno vedere quali sono i vostri amici online e vi permettono una comunicazione diretta con loro. Ecco, a metà della scorsa settimana sono uscite delle nuove versioni di Skype, sia per Windows che per Linux che per Mac e Pocket PC, mentre invece non sono sicuro che sia già uscito per Pocket PC, ma sicuramente non è quella più utilizzata, e insomma sostanzialmente dovete ricordarvi di aggiornare il vostro Skype, perché queste falle sono decisamente molto molto pericolose. Considerate che gli utenti di Skype sono più di 60 milioni nel mondo, quindi sicuramente una volta che sono state rivelate queste falle, un virus che le possa sfruttare non sarà tardo a venire. Invece altre due notizie sul fronte open source. Allora, IBM ha sbloccato 45.000 brevetti che aveva registrato. Ce li ha regalati? Sì, li ha regalati alla comunità, sostanzialmente li ha aperti. Ma che strano! Perché? Non pagherà più le royalties per mantenerli protetti. E forse per questo erano troppi e quindi non aveva più soldi. Beh, infatti fa abbastanza specie, 45.000 sono veramente tanti. E diciamo che vabbè, in generale l'IBM, come molte aziende, tra l'altro ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, dell'operazione di Microsoft sull'open source, l'IBM è già un po' che sta facendo lavoro da questo punto di vista assieme alla Sun. Puntano a sfruttare le potenzialità dell'open source, in particolar modo appunto le communities, quindi quel gruppo di utenti sviluppatori che spesso seguono i progetti e si appassionano, soprattutto li provano, per cui anche i grandi colossi come l'IBM hanno difficoltà soprattutto nelle fasi di prova, di testing eccetera, hanno difficoltà a proporre delle persone, comunque a fornire un pool di utenti sufficiente per poter testare i loro software. Quindi diciamo che si può leggere in quest'ottica. È comunque una buona notizia, nel senso che ha comunque delle ripercussioni positive sulla comunità, perché a questo punto chiunque potrà utilizzare il software protetto da quei brevetti, e ci sono anche alcune cose interessanti. Sono cose un po', diciamo, di nicchia, però è comunque una notizia positiva. Però forse è da leggere anche dal punto di vista della chiave di lettura della battaglia europea sulla brevettazione sui brevetti software, e magari questa mossa tende a dare delle motivazioni per cui una futura direttiva sul software potrebbe invece essere proposta in modo da permettere appunto la brevettabilità del software. Potrebbe essere anche vista da questo punto di vista una specie di mossa siamo in campagna elettorale per quanto riguarda i brevetti, per sì, quanto anche riguarda questo. La legge sui brevetti, e questa è una bella mossa che dice: ah, l'IBM rinuncia a 45.000 brevetti per ammorbidire un po' la questione. Ecco, teniamo conto che questi brevetti non sono i brevetti focali in questo momento, sono tutti brevetti che ormai hanno passato un po' il loro tempo, e sicuramente cioè IBM non ha sentiamo parlare solo perché li hanno liberati, altrimenti sarebbero rimasti lì nel dimenticatoio. Sì, sì, sono comunque un brevetto carino che non abbiamo mai citato in trasmissione, che è uscito quest'estate. Ma cosa c'entra? Beh, è carino, Microsoft ha brevettato l'iPod, è riuscito a fregare sul tempo la Apple brevettando l'iPod e mandando su tutte le furie Steve Jobs. Sì, è vero, la querela è iniziata quest'estate e non è ancora risolta. Infatti attendevamo di avere delle notizie più concrete, nel senso azioni legali dirette, ma sono un cialtrone, che sono nell'aria, non ci sono ancora, però si sta attendendo una mossa o di una o dell'altra. E quindi un'anticipazione da cialtroni nello spazio per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Adesso cosa facciamo? Continuiamo, Alessandro, come siamo con i tempi? Ascoltiamo, no, direi che allora finiamo. Parliamo con l'ultima notizia, sempre da questo da fronte open source. Appunto, come dicevo prima, si stanno muovendo anche grandi colossi verso l'open source, sempre IBM, Sun, assieme a Cisco e Fujitsu, Siemens, hanno si sono accordate per realizzare uno standard aperto per la gestione di apparati di storage, che vuol dire archiviazione delle macchine indipendenti per archiviare dati. E anche questa è una notizia interessante, che comunque dei grandi colossi si muovano per sviluppare qualcosa insieme che sia aperto e comune. Staremo a vedere. Anche perché questo andrà tutto a vantaggio degli utenti, che anche se cambieranno le macchine non dovranno poi spendere molti soldi in formazione, ma potranno utilizzare la stessa apparecchiatura, cioè un'apparecchiatura diversa con lo stesso software. Quindi insomma è sicuramente, va nella direzione giusta come proposta. Ah, brevemente parliamo anche di un software, lo buttiamo lì così velocemente. Sì, allora questo qua, presentiamo un software piuttosto carino che io uso spesso ormai, diciamo che è dedicato soprattutto a quelle persone che devono ricordarsi un mucchio di password e devono avere anche delle password sicure, per cui difficilmente memorizzabili. La soluzione a questo problema sono quei software che archiviano le password in file criptati, quindi non leggibili se non direttamente con il software, e le nascondono tutte dietro una password che deve essere ovviamente molto robusta, che però diventa una sola per tutte le altre. In particolare questo software è carino perché è multipiattaforma, e non solo, lo stesso identico software, quindi lo stesso eseguibile, può essere utilizzato sia su Windows che su Linux che su Sun, insomma su tutte le piattaforme che fanno funzionare Java. Molto utile perché sta su una chiavetta, quindi lo si può portare ovunque. Allora il sito è Parte che voglio vedere un software che non ci sta su una chiavetta, Tipo OpenOffice. Vabbè, ci sta sulla mia chiavetta anche OpenOffice non Office. Installato. Allora, il sito Brofone. È icanseeyou.free.fr, quindi France. E il software si chiama PassReminder, è abbastanza carino. Esistono, vabbè, tutte le versioni nella sezione download. C'è il kit di installazione per Windows, quello per Linux e poi la versione Memory Stick, che è proprio quella che accorpa le due e le fa stare sulla chiavetta senza bisogno di installazione né nulla. Come se voi non l'aveste capito, Alessandro ha questo software sulla sua chiavetta. Per cui, no, beh, l'utilità è quella, altrimenti se uno se lo archivia a casa, ce ne sono mille altri, insomma, questo ha questa peculiarità. Di silenzio, attenzione, attenzione, è la sigla finale di Cialtroni nello spazio. Complimenti per il taglio in colla, Alessandro, violento. Winamp non dà possibilità di mixaggio, per cui non rompermi le scatole. Era un tranciamento incredibile. Un gioco di mani, alzare e abbassare i volumi leggermente. Cialtroni nello spazio, è finita la quarta puntata. Ci rivediamo come al solito il mercoledì attorno alle 12:30 su Radio Onda. Il sito è spazio.circolab.net. Lì trovate le puntate, il forum per inviarci le mail e tutto quanto. Un saluto da Francesco, Alessandro e Marco. Alla settimana prossima, ciao! Ciao!